La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Bicondo. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 9 maggio 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Beh, dopo aver parlato di cose poco serie, cioè di astrologia, quest'oggi parleremo di cose un pochino più alte. Parleremo di astronomia, dell'astronomia dei primi istanti dell'universo. Parleremo fondamentalmente del satellite Planck. E per parlare del satellite Planck abbiamo al telefono il professor Nazareno Mandolesi dell'INAF di Bologna, ma soprattutto PI di uno dei due esperimenti di Planck. Buongiorno dottor Mandolesi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottor Mandolesi, all'inizio abbiamo come al solito le 100 parole iniziali per cominciare la trasmissione. E allora le voglio chiedere in 100 parole o magari 120. Che cos'è Planck? Giusto per dare un'introduzione e poi lo andremo ad analizzare meglio nel proseguo della trasmissione. Planck è il satellite, il primo satellite europeo, è il più complesso satellite di questo tipo che andrà a studiare i primi istanti dell'universo attraverso un complesso sistema di rivelatori che comprendono un telescopio di 1,5 metri di diametro e due strumenti millimetrici nel piano focale che utilizzano tecnologie radio l'uno e bolometrico tipo termometri l'altro. Lo strumento, il Planck, è un satellite estremamente complesso, sarà lanciato il 14 di maggio, quindi fra qualche giorno, dopo 17 anni di lavoro, e sarà spedito nel punto Lagrangiano secondo, che è un punto di equilibrio tra il sistema Terra, Luna, Sole, avendo il Sole, la Terra e la Luna alle spalle, in maniera tale da ridurre al minimo il rumore che questi corpi possono generare alla rivelazione, agli strumenti del satellite. Il satellite è un satellite raffreddato attivamente, del primo satellite raffreddato di questo tipo, e del terzo satellite, dopo i primi due della NASA, il primo COBE lanciato nell'89, il secondo WMAP lanciato nel 2000, che viene lanciato per studiare l'universo nei primissimi istanti della sua vita. Benissimo, dottor Mandolesi, abbiamo messo molta carne al fuoco. Adesso ci fermiamo un attimo, sentiamo un pochino di musica. Ho superato le mie 100 parole. Magari siamo andati sulle 150, ma non è importante. Intanto approfitto per dare contatti 333-180-9494 per mandare gli sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it, in modo tale che se qualche ascoltatore ha qualche domanda da fare gliela può porre tramite sms. Intanto mandiamo un pochino di musica, poi torniamo in studio e poi cominciamo davvero con la trasmissione. Then bentornati a Caccia Fotone. Quest'oggi si parla di astronomia e quindi del satellite Planck. Cominciamo così. 4, 3, 2, 1, top, allumage Vulcain. Tout paramètre bord dominant. Questo dottor Mandolesi è quello che speriamo di sentire il 14, quando verrà lanciato finalmente questo satellite Planck. Però dobbiamo dire che in realtà Planck è solamente un figlio dei tanti satelliti che sono stati mandati per studiare queste cose. E allora cerchiamo di capire Planck che cosa analizzerà, giusto per avere un'idea, perché i problemi della cosmologia in questo momento sembrano veramente tantissimi, sembrano di non facile soluzione. Abbiamo l'energia oscura che non sappiamo che cosa è, la forza oscura che non sappiamo che cos'è, abbiamo la radiazione cosmica di fondo che sembra non essere costante in ogni parte dell'universo, quindi i problemi sono veramente tanti. Sì, diciamo che le grandi domande della cosmologia sono le solite: perché l'universo è così grande, perché l'universo è così vecchio, perché è così disordinato, ma nello stesso tempo perché è così ordinato, perché è così uniforme, perché così isotropo, cioè in qualsiasi parte uno lo guardi, lo vedi sempre uguale a se stesso, a meno che non vada a vedere dei segnali piccolissimi, che è quelli che noi cerchiamo. Qual è l'origine delle strutture che vediamo nell'universo oggi? Qual è l'origine delle stesse, delle galassie, delle stelle, delle galassie, delle protogalassie? Cos'è accaduto durante il Big Bang? Che possiamo testare la fisica prima del Big Bang? Domanda molto difficile. Quale sarà la fine dell'universo? Ecco, queste sono le domande che si pone un satellite come Planck. E come diceva lei, è il terzo satellite di questo tipo che viene lanciato. Come le dicevo, il primo è stato lanciato nel lontano 89 ed era COBE della NASA, ed è il primo che ha fatto la scoperta che effettivamente l'universo è isotropo, ma non a livelli di una parte su 10.000, anzi su 100.000. Isotropia esattamente che cosa vuol dire, professor Mandolesi? Vuol dire che in qualsiasi direzione, isotropia è se io guardo in una direzione il cielo e poi lo guardo in un'altra direzione, lo vedo uguale, quella è l'isotropia. Se guardo due direzioni e lo vedo disuguale, quella si chiama anisotropia. Qua stiamo parlando, tra parentesi, non delle cose che vediamo con gli occhi, né delle cose che vediamo con i telescopi, ma stiamo parlando di quei fotoni in cui l'universo è immerso e che sono il relitto del Big Bang da cui l'universo è nato. L'universo quindi è immerso in questa luce che si chiama radiazione cosmica di fondo, o come la chiamano gli inglesi Cosmic Microwave Background, dagli scopritori CMB. Quindi l'universo immerso in questo mare di fotoni, la CMB, che è estremamente isotropo, cioè estremamente uguale a se stesso in tutta la direzione lo si guardi, a meno che uno non vada giù in sensibilità a livelli di una parte su un milione di gradi. A quel punto comincia a vedere delle piccole disuniformità, dei piccoli semi di radiazione più calda o più fredda di quella che vediamo normalmente, e quelli sono proprio i segni di ciò che l'universo nella sua espansione ci ha lasciato nel momento in cui la materia e la radiazione si sono disaccoppiate. E questo, quello che noi vediamo oggi, è qualcosa che risale a qualcosa come 380.000 anni dopo il Big Bang. Ricordiamo che l'età dell'universo è circa 14 miliardi. Per semplificare, se l'universo fosse una casa formata da tante stanze, in una stanza farebbe caldo per esempio 35 gradi, in un'altra stanza per esempio farebbe caldo 36 gradi, eccetera eccetera. Insomma, ogni stanza ha una temperatura diversa, possiamo dire. Certo, se vuole facciamo il paragone di un terreno. Laddove ci sono i semi che faranno crescere il grano, c'è qualcosa che appunto è diverso da tutto il resto, e questa è la fotografia che faremo dell'universo a 380.000 anni dal Big Bang, da ciò che l'ha creato. Questa fotografia, che è una fotografia estremamente accurata, molto molto molto più accurata di quelle fatte dai suoi predecessori, ci farà capire che cosa è successo prima e ci farà andare ai primissimi istanti dal Big Bang, a un tempo infinitesimamente piccolo, che possiamo descrivere come 0,00035 volte 0 un secondo. Quindi un tempo veramente piccolo. Subito dopo è successo qualcosa, ed è questo qualcosa che ha determinato le sorti dell'universo che vediamo oggi. Professor Madoresi, abbiamo in questo momento nella cosmologia abbiamo fondamentalmente un'idea che un tempo c'è stato un Big Bang, poi c'è stata un'espansione accelerata, che è il periodo inflattivo, poi c'è stata un'espansione tra virgolette costante, che è l'espansione dell'universo, poi alla fine abbiamo avuto un'espansione accelerata. Ma per arrivare a questo modello, che è il cosiddetto modello di concordanza, quanto tempo ci è voluto, cioè da dove siamo partiti? Siamo partiti dalla scoperta della reazione di fondo cosmico nel 1964, quando i due ingegneri Penzias e Wilson, che studiavano la trasmissione delle onde, delle microonde nell'atmosfera per trasmissione di satelliti, si trovarono questo segnale spurio di cui non capivano l'origine, ed era il segnale proveniente dalla reazione di fondo cosmico. È un segnale che pervade tutto l'universo, e diciamo alla sua temperatura è dell'ordine di 270 gradi sotto lo zero centigrado, o se vogliamo intorno ai 3-4 gradi sopra lo zero assoluto, e questa è stata la scoperta, partiamo di lì. Dopodiché però le teorie dicevano che questa radiazione non doveva essere estremamente e semplicemente isotropa, dovevano esserci dei segni lasciati dall'evoluzione dell'universo nel momento in cui materia e radiazione, che erano fortemente accoppiati l'un con l'altro fino a un certo punto, fino a 380.000 anni, quando si sono disaccoppiati la materia e la radiazione, cioè la materia ha lasciato sulla radiazione dei segni, come sulla carta carbone, dei segni che sono i segni gravitazionali di quelli che poi sono diventate le strutture che vediamo oggi. Questo diceva la teoria, e diciamo, alla caccia di questi piccolissimi segnali siamo andati avanti dagli anni 70, anch'io con i primi esperimenti, quando avevamo sensibilità dell'ordine di un millesimo di grado, e ovviamente non trovavamo assolutamente niente, fino a che non si è arrivati a sensibilità dell'ordine di un milionesimo di grado degli strumenti che osservano questi fenomeni, e a quel punto sono venute fuori le cosiddette anisotropie. Benissimo, professor Mandolesi, abbiamo messo molto carne a fuoco, poi abbiamo parlato di frequenze, di energia, abbiamo parlato fondamentalmente di alcune bande dello spettro elettromagnetico, e poi queste le andremo ad analizzare nella seconda parte della trasmissione, dopo il pezzo musicale, perché andremo a capire veramente come è composto il Planck e di quali strumenti è composto. It's not the same without you, but I'm remaining optimistic. My love just ain't the same without you, but I probably won't be coming home. It's true, but it's alright. Yeah, it's alright. Never could write a love song about you without it sounding too sarcastic. Used to think the world about you, but my universe is so elastic. But it's alright, yeah, it's alright. The sun bleeds sand where we used to stay. I wanna move so far away. We would dwell here, most each and every day. I wanna move so far. Ritorno subito in studio perché ci arriva un messaggio al 333-180-9494. E Carlo che ci chiede come mai questo satellite si chiama Planck. Professor Mandolesi? Si chiama Planck per il fatto che questo scienziato Ernest Planck tedesco ha dato il nome a quella che si chiama radiazione di corpo nero, e la radiazione di fondo cosmico è una radiazione di corpo nero. Il corpo nero vuol dire che ha una ben precisa forma in funzione della frequenza e dipende solamente dalla temperatura. Ogni corpo nero, un corpo nero è un corpo che emette, che assorbe tutto ciò che gli arriva dal di fuori e non emette assolutamente niente. Vuol dire che nel caso della radiazione di fondo cosmico vuol dire che questa è termalizzata in tutto l'universo, vuol dire che la temperatura è uguale in tutto l'universo, e quindi da qui il nome di Planck, appunto per ricordare il tipo di radiazione, il tipo di caratteristica della radiazione di fondo cosmico. Nell'anno 93, quando l'ESA emise un bando per, quindi è lì l'inizio di Planck, quando l'ESA emise un bando per nuove idee, per nuovi satelliti, arrivarono due proposte, una la mia e una del mio collega francese Jean-Luc Puget. La mia proposta si chiamava COBRAS, che vuol dire Cosmic Background Radiation Anisotropy Satellite, e l'altra si chiamava SAMBA, che vuol dire Satellite for Anisotropy, eccetera, eccetera. E quindi all'inizio il satellite si chiamava COBRAS SAMBA, dagli acronimi delle due proposte, però era un bruttissimo nome e quindi venne scelto Planck. Peraltro è una cosa che si fa molto spesso in astronomia, dare i nomi dei grandi scienziati, dei grandi astronomi ai vari telescopi. Per esempio il telescopio spaziale Hubble ha il nome Hubble perché appunto Hubble era uno dei più grandi astronomi che ha scoperto l'espansione dell'universo. Hubble è quello, è quello che ha messo la prima pietra miliare sulla cosmologia non qualitativa ma quantitativa. Prima la cosmologia era quasi filosofia. Dalla scoperta di Hubble, che è quella dell'espansione dell'universo, appunto come lei ricordava, è cominciata a diventare una scienza quantitativa, quindi con delle misure, con dei numeri, con delle previsioni non più filosofiche ma scientifiche. Professor Mandolesi, io salto subito al nostro strumento perché a questo punto gli ascoltatori sicuramente staranno aspettando. Planck è fondamentalmente un telescopio, però è equipaggiato di due grandi esperimenti, uno dei quali lei è il PI, cioè il Principal Investigator, e l'FI. Ce ne sono fondamentalmente due, no? HFI e LFI. In che frequenze vanno a analizzare? Che cosa vanno a fare? Sono diversi l'uno dall'altro? Dove sono posti? Insomma, cerchiamo di capire esattamente perché si mettono due strumenti e non uno come normalmente, o almeno nella maggior parte dei casi, si fa. Dunque, innanzitutto Planck, sì, come le diceva, è un telescopio con un piano focale, con due strumenti nel piano focale, e i due strumenti lavorano in simbiosi, costituiscono nel loro insieme quella che possiamo definire in maniera molto brutale una telecamera a onde millimetriche e submillimetriche. Quindi essenzialmente questi due strumenti faranno una fotografia del cielo in onde millimetriche e submillimetriche. I due strumenti si differenziano per due diverse tecnologie che utilizzano, LFI, Low Frequency Instrument, Low Frequency è relativo all'altro, opera tra 30 GHz e 70 GHz con dei ricevitori che sono essenzialmente delle radio ultrasensibili, sono le più sensibili radio mai costruite al mondo che voleranno nello spazio. Sono in grado, come le dicevo, di rivelare segnali piccoli come un milionesimo di grado, e sono basati su tecnologie tipo quelle dei nostri telefonini. Sono radio solo riceventi, non trasmettenti, ma ricevono appunto in maniera simile a quella in cui i nostri telefonini o le nostre radio ricevono. L'altro strumento, HFI, High Frequency Instrument, per differenziarlo dal Low Frequency Instrument, opera a frequenze tra 100 GHz e circa 850 GHz con una tecnologia sostanzialmente diversa, che è quella dei bolometri, che sono dei semiconduttori germani estremamente sensibili e funzionano come dei termometri. Quindi quando i fotoni della radiazione di fondo cosmico o del cielo arrivano su questi oggetti, li scaldano in maniera impercettibile, ma questi sono in grado di percepire il segnale. Anche questi sono sensibili a livelli di un milionesimo di grado. Dunque, innanzitutto il satellite è raffreddato, cioè tutti e due gli strumenti sono raffreddati alle temperature in cui sono sensibili nella maniera più, si raggiunge la loro massima sensibilità. Perché? Perché per evitare il rumore emesso da loro stessi. Quindi il primo satellite raffreddato attivamente arriverà a temperature dell'ordine di 100 mK, sopra, quindi un grado sopra lo zero assoluto. Come sapete, allo zero assoluto la materia non si muove più. E peraltro quindi, là nello spazio fa un pochino freddo, diciamo. Nello spazio la temperatura è 50 gradi Kelvin, che vuol dire intorno ai 220 gradi sotto lo zero, ed è quello il primo, diciamo, il primo risultato tecnologico del satellite. Il satellite è stato costruito con una tecnologia particolare di nostra invenzione, per cui sfrutterà al meglio la posizione in cui si trova, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, che guarda verso lo spazio freddo, raggiungerà in maniera passiva, si termalizzerà, quindi raggiungerà una temperatura costante di 50 Kelvin, e a quel punto entreranno in gioco i nostri refrigeratori, che lo porteranno prima a 20 gradi Kelvin, che corrispondono a circa 250 gradi sotto lo zero, e poi con altri refrigeratori fino a 0,1 gradi sopra lo zero. Le due tecnologie far sì di controllare l'un l'altro, cioè i due strumenti controllano l'un l'altro. Il trucco di questo tipo di esperimenti è quello di non essere ammazzati da quelli che si chiamano i rumori sistematici, cioè rumori che vengono sia dallo strumento, sia da satelliti, sia dall'ambiente circostante, sia dalle galassie, sia dalla nostra galassia, i quali sono molto, molto, molto, molto più grandi del segnalino piccolissimo che vogliamo andare a rivelare. E l'esistenza di due tecnologie diverse fa sì che, almeno dal punto di vista tecnologico, siamo in grado di riconoscere ciò che è causato dalla stessa strumentazione, e ciò invece che ha un'origine esterna. Senta, ma perché queste due bande di frequenza dovrebbero essere in grado di rivelarci le anisotropie della radiazione cosmica e altre informazioni? Perché queste e non altre? Perché, dunque, innanzitutto è il primo satellite che ha una copertura di frequenza così ampia, 9 frequenze diverse, da 30 GHz a 850 GHz, appunto per eliminare quella che è la radiazione proveniente dalla nostra galassia. La nostra galassia emette radiazione di sincrotrone a frequenze fino a 70-80 GHz, partendo da frequenze basse, e poi comincia ad emettere invece a frequenze più alte, da 100 GHz in su, radiazione che viene fuori dalla polvere. Queste due radiazioni costituiscono, per un satellite che vuole andare a studiare le anisotropie di fondo cosmico, un rumore che va assolutamente eliminato, va eliminato nella maniera più accurata possibile, e questo lo si fa appunto avendo questa estensione di frequenze, di strumenti che coprono sia la parte del rumore che la galassia emette a bassa frequenza, sia la parte del rumore che la nostra galassia emette ad alta frequenza. Quindi questo è il satellite più completo, come dicevo, rispetto ai precedenti, i quali coprivano soltanto la parte a bassa frequenza. Quindi ci troviamo, questo satellite possiede tre frequenze, che sono 70, 100 e 143 GHz, in cui il rumore emesso dalla nostra galassia dovrebbe essere minimo, ma appunto avendo la completezza delle altre frequenze, quelle più basse e quelle più alte, siamo in grado di rivelare queste emissioni, che per noi è un rumore, dal punto di vista astrofisico invece è un vero segnale, ed eliminarlo, sottrarlo, per poi andare a vedere sotto che cosa c'è. Senta, l'ultima domanda, che poi recupera una delle cose che ha detto nelle 100 prove iniziali. Alla fine il satellite Planck verrà posto nel punto L2, che è un cosiddetto punto lagrangiano, ma come mai viene posto in questo punto e non in altri? Che cosa ha di particolare questo punto, che è un punto fondamentale, particolarissimo? È uno dei punti lagrangiani, appunto. I punti lagrangiani sono i punti di equilibrio tra i corpi principali del nostro sistema solare. In questo caso è il punto di equilibrio del sistema Terra-Luna-Sole, non è un punto, è una zona, in cui effettivamente una volta che il satellite viene messo lì non si sposta più, non ha bisogno più di essere mosso, si rimane in quella zona lì. Il punto è che è lontano 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, quindi la Terra viene vista come un oggetto che ha una dimensione angolare di circa 0,5 grado, la Luna è molto più piccola e non emette rumore. Se avessimo il satellite intorno in orbita, per esempio polare o equatoriale, a quel punto avremmo dei problemi perché la Terra stessa emette un ulteriore rumore, quello dovrebbe essere tolto, così come hanno fatto, come ha fatto il satellite COBE. Ma vogliamo metterci nelle condizioni di purezza di rumore il più possibile. Il rumore emesso da Terra, Luna, ovviamente Sole, in quella posizione sono minimi. Questo è il motivo per cui siamo andati in quella regione di cielo. Professor Mandolesi, adesso mettiamo un piccolo pezzo musicale, poi torniamo rapidamente in studio per rispondere all'SMS che ci è arrivato al 333 180 94 94. Siamo rapidamente in conclusione di Caccia al Fotone. Professor Mandolesi, Pilo ci chiede: dentro c'è tecnologia che proviene dai militari? rispondo con un sorriso. Diciamo che le tecnologie che vengono fuori, le tecnologie spinte vengono fuori o dalla ricerca spaziale o dalla ricerca militare. È difficile dire quanto si mescolano e quanto si separano. Diciamo che in realtà non c'è una grossa differenza, il discorso è solamente che diciamo la scienza la utilizza in maniera pulita e i militari lo utilizzano in maniera un pochino più sporca. Assolutamente sì, anche le tecnologie militari poi bene o male alla fine ricadono sulla nostra vita, e quindi quando non utilizzati in maniera sporca certamente fanno del bene all'umanità. Professor Mandolesi, io la ringrazio per essere intervenuto all'interno di Caccia Fotone. Saluto tutti i nostri radioascoltatori che hanno aspettato pazientemente l'intervallo di una settimana in cui noi non siamo andati in onda per un motivo del tutto tecnico. Io, professor Mandolesi, la ringrazio, la saluto, spero di averla in diretta altre volte per nuovi lanci e nuovi satelliti che verranno mandati per studiare i misteri più misteriosi dell'universo. E do appuntamento a sabato prossimo, stessa ora, stesso fotone, con il solito nostro augurio di buona scienza a tutti. Grazie professor Mandolesi. Grazie a tutti voi.